piano piano sono un fiore fragile che libera un profumo dolce e amabile. Se mi raccogli tutto finirà. Bagnami le gocce che si fermano sui petali, cadono e la terra si fa umida. Se vivo è per l'amore che mi dai. Fiore sai, non ti raccolgo, voglio farti vivere, guardare i tuoi colori mentre cambiamo, innamorarmi un po' di te. Fiore sai, c'è tanto amore dentro questo cuore, ma il mondo non si ferma in un giardino che di certo l'infinito. Primavera e tutto sembra magico, il vento è una carezza interminabile, tra poco finalmente sboccerò. Ah. Oh, fiore sai, non ti raccolgo, voglio farti vivere, guardare i tuoi colori mentre cambiamo, innamorarmi un